È martedì 24 dicembre. Dai, dai, dai. Schema Allegri a palla, anche se porta benissimo. I titoli dei giornali, Sole 24 Ore apre così con la conferenza di Letta. Letta, con la spending ridurrò il cuneo fiscale. Per il Corriere della Sera invece l'apertura sulle pensioni, aumenti mini, tagli veri. Bel regalo di Natale, eh? Repubblica, Letta lancia la sfida dei quarantenni. La Stampa, Letta, io e Renzi senza alibi. Il Messaggero, 2 miliardi di tasse in più. Eccolo qui un altro bel regalo di Natale in prima del Messaggero. Libero le palle di Letta e Renzi. Pacchi dono Natale, questo è il titolo di prima pagina. Mentre sull'Unità, Letta Renzi, la prova del fuoco. Il titolo invece di apertura del giornale è uguale a quello di Libero, palle di Natale. Per il Fatto Quotidiano parla invece Sergio Scarpellini, lo vedremo tra poco, è colui che è il proprietario dei palazzi affittati a Camera e Senato, parla l'affitta camere, ho dato soldi a tutti. Questo è il titolo di prima pagina, mentre il Manifesto mette in prima pagina un immigrato, il titolo è auguri, la protesta all'interno dei centri di identificazione, anche questo lo vedremo tra poco. Questi alcuni titoli di apertura, come detto parleremo del decreto Salva Roma. E c'è questa polemica, sì, sugli affitti d'oro anche, che continua da qualche giorno, perché... come racconta Marzio Bartoloni a pagina 13 del Sole 24 Ore, c'è la Camera che ha dato la fiducia al decreto Salva Roma, ora passerà al Senato che lo approverà forse il 27 di dicembre, torna in aula quel giorno. E che succede? C'è questa polemica degli affitti d'oro, no? È stato citato questo Sergio Scarpellini, proprietario dell'immobiliare che in 10 anni ha affittato per 444 milioni gli edifici esterni di Camera e Senato, tra cui Palazzo Marini, per esempio. Intanto i dettagli di quello che c'è nel decreto Salva Roma, beh, l'abbiamo già detto, no? Anche tra le novità, racconta il Sole, la sanatoria per chi ha costruito chioschi, cabine, bungalow su aree in concessione demaniale, ad esempio le spiagge. Il decreto consente di tenere in piedi queste strutture, rendendole quindi stabili e pagando il 3% in più del canone concessorio. In pratica questi manufatti non dovranno poi essere rimossi obbligatoriamente a fine stagione, in quanto la loro vita viene legata alla durata delle concessioni demaniali marittime, che sono ultimamente prorogate sino al 31 dicembre del 2020. Ma poi ci sono fondi per la Campania, la Calabria, 25 milioni a Milano per l'Expo, 5 milioni per risarcire le imprese che abbiano subito danni dalle proteste no TAV, 35 milioni per rifinanziare la social car, 28 milioni e mezzo per la raccolta differenziata a Roma. Beh, almeno questo, l'ultima voce riguarda una voce su Roma, e almeno questo nel decreto Salva Roma. Ma come detto, c'è questa vicenda degli affitti d'oro, no? 444 milioni, questo è ciò che è andato all'immobiliare di Sergio Scarpellini in tutti questi anni, ma lui si difende in due interviste, una su Repubblica e una su Il Fatto Quotidiano. Eccolo qui su Repubblica, intervistato da Tommaso Ciriaco a pagina 10 e 11. Dottore, è seduto su una polveriera, quanti attacchi in queste ore, eh? Tutte stronzate, risponde Scarpellini. Guardi, la politica è fatta di chiacchiere. Peccato però, perché se rescindono gli affitti rischiano di andare a casa 500 dipendenti, a meno che non li assuma la Camera. Secondo me, guardi, si può fare tutto, poi io voglio passare un Natale tranquillo. Rivolgetevi al catasto, mi hanno anche chiamato per chiedermi di altri edifici e io ho detto rivolgetevi al catasto, la politica fa schifo. Ma insomma, lei dalla politica ha preso 444 milioni di euro affittando palazzi alle camere, Allora, innanzitutto deve levare l'IVA da quella cifra, sono tanti milioni, poi deve togliere il 50% di tasse, poi ci sono gli interessi bancari, i conti bisogna saperli fare, intanto che il titolo è «Dopo le tasse resta mica tanto», Scarpellini e quei 444 milioni. Sergio Scarpellini è anche l'intervistato di Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano a pagina 3, affitti d'oro, la camera da me poteva comprare, e questo è quello che dicono un po' tutti invece di affittare per anni. Comunque Scarpellini anche al Fatto Quotidiano dice le stesse cose: io non mi aspettavo nulla dalla politica, che farebbe al posto mio? Durante la campagna elettorale vengono qui bianchi, rossi, verdi e noi un contributo lo diamo sempre a tutti. Gli imprenditori romani fanno così. È un'abitudine, non lo facciamo mica per piacere. Se volevano con questo denaro che mi hanno dato, circa 369 milioni di euro per le locazioni, un paio di edifici li potevano anche acquistare, avevano un'opzione, perché non l'hanno sfruttata? Se mi chiamano io vendo di corsa, anzi ci metto pure un fiocco su, però si devono prendere il personale, per me questa storia è diventata una rogna, avete capito? Una rogna. L'affitto per 444 milioni, sì, vabbè, bisogna togliere le tasse, l'IVA e tutto, ma insomma sono comunque belle cifre, una rogna per Sergio Scarpellini. Detto questo, nel decreto Salva Roma c'è questo, c'è anche altro, tanto che Buonanno si è presentato, appunto, l'onorevole anche un po' di colore della Lega, si è presentato con un forcone di cartone in aula a Repubblica, dice, l'ho nascosto come Clint Eastwood nel film Fuga da Alcatraz. Sotto l'impermeabile, un forcone finto, di cartone, mica un forcone vero, ma comunque sarà con noi alle 8:15, vedremo un po', anche Libero su questo Salva Roma ha qualcosa da dire. Per salvare la capitale paghiamo 1000 marchette, una pioggia di milioni, 500.000 euro a Pietrelcina, altrettanti per una torre anticorsari a Porto Palo. I corsari, stanno arrivando i corsari, bisogna finanziare la torre anti-pirateria, anticorsari, magari c'è l'attacco, l'assalto all'Italia. 23 milioni per i treni della Val d'Aosta, 28 milioni per i rifiuti di Roma, vabbè, è quello che si è detto. L'altra polemica che continua a campeggiare sui giornali, come detto il Manifesto ci titola in prima pagina con una foto di un immigrato, il titolo auguri, è la protesta che c'è nei centri di identificazione ed espulsione. Le immagini sono molto anche strazianti per certi versi, di alcuni immigrati che si sono cuciti la bocca con lo spago per polemica. Su questo, mentre continua la protesta del deputato del PD Khalid Chaouki, che viene intervistato oggi dal Manifesto a pagina 3, è barricato, o meglio barricato, è all'interno del centro di Lampedusa e ha deciso non uscirò finché il governo non risolverà questa situazione. Intervistato da Luca Fazio, dice: caro PD, quindi anche il suo partito, è ora di agire. Sono rinchiuso qui da 3 giorni. Al di là del degrado evidente per tutti, prevale un senso di rabbia, frustrazione, soprattutto per i superstiti del naufragio del 3 ottobre scorso. Così Chaouki, intervistato dal Manifesto. Ma vi voglio segnalare intanto il pezzo che in prima pagina e poi a pagina 2 e 3 Attilio Bolzoni scrive per Repubblica. Il titolo è: nella stanza dei ragazzi con le bocche cucite, dateci la libertà, è un viaggio tra gli immigrati di Ponte Galeria. Attilio Bolzoni scrive: il filo che gli serra le labbra è verde come il colore del suo maglione, un piccolo grumo di sangue si è già fatto crosta sotto il naso, è mutilato e quasi muto, a ogni parola sente uno strappo, una fitta che arriva al cervello. Si chiama Tahari, un suo amico ha usato lo spago giallo, un altro quello nero della coperta. Nella stanza delle bocche cucite me li ritrovo tutti insieme, i prigionieri di questa Italia che li ha nascosti a un passo da noi. Lui, Tahari, l'altra sera ha preso un pezzo di ferro, l'ha affilato come si fa coi coltelli, poi ha cominciato a incidere su una parte e sull'altra delle sue labbra. Dove ha trovato la carne più molle, ha cominciato a spingere verso giù, sempre più giù, un punto dopo l'altro, piano piano. Un buco piccolo, poi un buco un po' più grande, poi più grande ancora, fino a quando dalla sua bocca di sangue non è uscito più. Non ha gridato, non ha versato una sola lacrima di dolore. Pensavo a mia madre, dice, mentre me la chiudevo. Racconta mentre mi trascina nella camerata dove ci sono i suoi compagni, il blocco numero 12 dopo il varco G. E scrive Bolzone: dimmi, Tahari, perché ti sei cucito la bocca? Perché non ce la faccio più a star qui, per tre volte ho fatto lo sciopero della fame, per tre volte è stato tutto inutile, voglio la libertà, voglio essere libero. Un volto, uno sguardo, una parola, le labbra deturpate. Provateci voi, scrive Bolzone, a dimenticare le facce che ho visto ieri mattina a Ponte Galeria. Provateci voi a venire in questo recinto e non vergognarvi di cosa stiamo facendo a questi ragazzi che vengono dall'altra parte del mondo. Prego, accomodatevi in questo carcere che per pudore nessuno vuol chiamare carcere, dove uno di loro ha preso la molla dell'accendino, se l'è conficcata lì tra i denti e la lingua, intrecciando la lana della sua felpa. L'altro che ha scelto un chiodo, una spilla per ferirsi, il gancetto di un quaderno, un fermaglio, una molletta. Venite a vederli, per favore. Bianchi, neri, metà bianchi e metà neri, magrebini, bosniaci, georgiani, serbi, palestinesi, ucraini, tunisini, rumeni, egiziani, marocchini, senegalesi. Insomma, è questo un viaggio resoconto molto molto duro, appunto, tra i ragazzi con le bocche cucite. Questo è il titolo: vogliamo solo essere liberi, ci sigilleremo anche le palpebre. Oggi faremo questo, annunciano, ci sigilleremo le palpebre per tenere gli occhi chiusi di fronte a questa vicenda. Su questo devo dire con tutt'altro tenore è l'articolo di prima pagina di Vittorio Feltri sul Giornale. Certamente l'orientamento politico editoriale è diverso e anche il tono di come viene trattata questa vicenda da Vittorio Feltri è all'opposto. Se siamo cattivi, gli immigrati stiano a casa loro. Così Vittorio Feltri. Siamo maestri di autodenigrazione, salvo lamentarci se la stampa straniera, prendendo spunto da quella nazionale, ci piglia sul serio e ci reputa straccioni, corrotti e corruttori. Qualche tempo fa una delle famigerate carrette del mare colò a picco e noi ci flagellammo. Dovevamo essere più pronti nei soccorsi, siamo colpevoli, che Dio ci perdoni. Si trascurò di considerare un fatto che dimostrava la nostra innocenza. Il barcone, quando cominciò a essere in balia delle onde, si trovava in acque territoriali di Malta. E poi ancora le immagini di Lampedusa, della gente che aveva la scabbia, malattia parassitaria caratterizzata da eritemi. È stata appunto innaffiata così, spruzzata. L'episodio ha suscitato scandalo e indignazione, incomprensibilmente, scrive Feltri. Perché tanto chiasso attorno agli immigrati curati a Lampedusa coi sistemi descritti? Siamo in inverno, fa freddo, come si fa a trascinare all'esterno tanta gente e annaffiarla? Non fosse sufficiente questa gratuita polemica, subito ne è scoppiata una seconda, altrettanto gratuita: l'accoglienza riservata ai migranti, secondo alcuni di essi e non pochi commentatori nostrani, merita di essere censurata. Ma anche qui abbiamo da obiettare: non è facile ospitare a Lampedusa centinaia di persone, si fa quel che si può, ci si arrangia. Se una quantità sterminata di persone lascia il terzo mondo per venire qui, ci sarà pure una ragione. Probabilmente più che una ragione è una speranza, e quando tale speranza si rivela un abbaglio, c'è un solo rimedio: non la ribellione, ma la rinuncia a raggiungere la nostra terra. Se meno disperati optassero per l'Italia, meglio sarebbe per loro e per noi. Siamo brutti e cattivi? Stateci alla larga. Così Vittorio Feltri sul Giornale. Come vedete, due impostazioni ben diverse per affrontare questo tema, che è su tutti i quotidiani, anche La Stampa. C'è lo sfogo del procuratore di Agrigento, Di Natale, che dice: nella mia carriera qui ho indagato 16.000 migranti, ora basta per il reato di immigrazione clandestina, per la legge Bossi-Fini. No, non è la legge Bossi-Fini, ma è proprio il reato di immigrazione che fu inserito, comunque, ministro credo fosse Maroni. Laura Anello sulla Stampa racconta da pagina 7 lo sfogo del procuratore, che dice: ho provato vergogna di fronte a tanto zelo, il fatto di dover indagare 16.000 fascicoli, 16.000 interrogatori con l'assistenza di un legale non è cosa semplice, tantomeno con le carenze dell'organico. Ci sono solo 7 sostituti anziché 13, 16.000 indagati, e poi sono indagini che finiscono spesso nel nulla. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccomi, sono ancora qua, sono le 7:32 minuti, voi ci siete, vi lancio il numero dei messaggi per mandare anche gli insulti come qualcuno fa, viva, viva, è Natale, 349-238-6666, siamo in diretta. Tra l'altro mi scrive un'ascoltatrice, dire ma parli del tuo lavoro come Maria Grazia, come se fosse un lavoro forzato. Ma no, Maria Grazia, ma dai, ma un po' di ironia, un po' di sarcasmo. Ma poi quale lavoro? Mai parlato del fatto che io lavori? Non mi sembra che faccia un lavoro. È sarcasmo anche questo, cara Maria Grazia. Comunque, la questione dei lavori forzati mi dà spunto per leggere ciò che scrive Libero a pagina 9. Sapete che in questi giorni alla Camera si lavora anche intensamente, con sedute notturne, perché bisogna approvare delle cose, si lavora anche il 27, bisogna approvare dei decreti entro la fine dell'anno. Uno è il decreto Salva Roma, di cui parleremo appunto alle 8:15. Allora guardate come titola Libero a pagina 9, la deputata di SEL, siamo ai lavori forzati. Per la verità questa frase non è che l'abbia proprio detta così, ma l'onorevole Titti di Salvo, racconta Paolo Emilio Russo, a pagina 9 di Libero, ha fatto un intervento che insomma appare un po' strano. Alla Camera ha preso la parola e ha detto in pratica questo: si rispetti l'umanità delle condizioni di ciascuno, bisogna dare certezze, mai dimenticarsi della cura delle persone, specie di quelle che ciascuno di noi ha attorno a sé. E al lettore digiuno potrebbero sembrare parole di carità pronunciate da Papa Francesco, il grido di dolore di un clandestino in un centro di identificazione. In realtà sono le parole di Titti di Salvo, onorevole di SEL, si lamentava per la domenica lavorata, per il protrarsi dei lavori in aula, l'inevitabile avvicinarsi delle festività natalizie. Ha detto questo: ci tengo che tutti tengano in conto l'umanità delle condizioni di ciascuno, penso sia importante stabilire un calendario che dia certezza alle persone della loro vita da qui in avanti. Si parlava dell'ordine dei lavori parlamentari. Ecco dunque che Libero la prende anche un po' in giro così, sembra che stia parlando di lavori forzati. A proposito del discorso dei migranti, oggi ancora ci sono alcune cifre, alcuni calcoli che vi sottopongo a pagina 19 del Corriere della Sera. Fiorenza Sarzanini racconta il business di questi centri di identificazione ed espulsione. Cibo, stipendi, affitti, i centri ci costano 200.000 euro al giorno. 200.000 euro al giorno. Ai pasti per ogni migrante ospitato nel centro di Ponte Galeri a Roma sono destinati 5 euro, in altre strutture si riesce addirittura a spendere di meno, tanto basta per comprendere quale sia la qualità del cibo servito. Si cerca di risparmiare, anche se questo non è sufficiente a far scendere i costi complessivi per il mantenimento delle strutture. Per avere un'idea precisa bisogna analizzare i numeri contenuti nel prospetto della legge di stabilità e così si scopre che per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di identificazione e espulsione sono stati stanziati 236 milioni per il 2013, con un incremento di 66 milioni rispetto all'anno precedente, e 220 milioni nel 2014. Ma la relazione dell'associazione A Buon Diritto del senatore Manconi, sulla base dei dati del Ministero, ha stimato una spesa di circa 200.000 euro al giorno. A questa cifra va aggiunta quella per le spese per i rimpatri. 200.000 euro al giorno, questa è la cifra che costano alle casse dello Stato italiano. Qui non è specificato se poi ci sono i contributi europei, immagino sì, voglio sperare che insomma di questi paghi molto anche l'Europa per questi centri di identificazione e espulsione, visto che sono siamo in Europa, no? Così ci risulta. Comunque, avete sentito Enrico Letta, il nostro premier, anche nel giornale radio, è l'era dei quarantenni. Caro Peter Bescapè, tu quanti anni hai? 37, devi attendere ancora un pochettino. Io ci sono in pieno e sono contento, è l'era dei quarantenni, Letta stesso, Renzi, Alfano, se volete anche Salvini, non lo so, cioè io cito i leader che mi vengono in mente dei partiti che hanno sui 40 anni. Letta, oltre a questo, ha detto anche: ridurremo le tasse sul lavoro. Come racconta il Sole 24 Ore, pagina 3, Emilia Patta, la riduzione delle tasse sul lavoro con i proventi derivanti dalla spending review è un qualcosa che Letta ribadisce. Sciolgo questo equivoco, capisco l'impazienza delle parti sociali, l'avevo detto a novembre quando nacque l'idea del fondo per un meccanismo di automatismo per tagliare le tasse con i proventi da spending e capitali, e riconfermo questo impegno, interventi che porteranno risorse che serviranno a ridurre il peso fiscale sul lavoratore e su chi dà e genera lavoro. Nella legge di stabilità, continua Letta, c'è già una prima riduzione del costo del lavoro, la strada è questa, ma confermo che sarà percorsa senza sfasciare i conti pubblici, perché la stabilità ha i suoi dividendi, ma se esiste e se la si porta avanti nel tempo. E dunque, se, con un occhio ai conti pubblici, ma Letta ha ribadito l'impegno a ridurre le tasse sul lavoro. Quando? Vabbè, insomma. Non troppe domande alla volta, cari italiani. E intanto la promessa c'è. Per la verità, questo stride un po' con l'articolo che trovate a pagina 7, sempre del Sole 24 Ore. La firma è Dino Pesole. Su quello che di questa promessa c'è contenuto in manovra, c'è poco. Cuneo fiscale in manovra, solo impegni generici, questo almeno è il titolo. Il Premier rilancia questa proposta, ma il fondo nasce con troppi paletti, così almeno racconta Pesole. Un impegno programmatico, non una norma vincolante che andrà verificato in corso d'opera alla luce delle risorse effettivamente disponibili. L'impegno: ridurre le tasse sul lavoro, un percorso del Presidente del Consiglio che passa dai risparmi della spending review, ma per ora, racconta Dino Pesole, solo impegni generici. Beh, insomma, questa svolta generazionale è una delle svolte promesse da Letta. Ha detto anche: il 2014 è l'anno in cui non avremo alibi. Ha detto anche: faremo la legge elettorale entro le europee di maggio. La riforma elettorale. Avevano detto che era anche entro novembre. Cosa volete che vi dica, cari italiani? Siamo nel corso della 34esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E continueremo a contare, nella speranza, perché qualcuno mi scrive e dice: ah, ma lei ci gode. No, no, nella speranza di finire questo conteggio, di finirlo, di smettere con questo conteggio. Ma che dobbiamo fare? Cioè, io non so, io finché sento queste promesse e poi non vengono mantenute, noi andiamo avanti a contare. Io vado avanti a contare. Intanto, sul tema del lavoro, sul tema del dibattito, beh, intanto la notizia per quel che riguarda Matteo Renzi è che ieri ha detto: mi candido nuovamente a sindaco di Firenze, rilanciando e rinfocolando le polemiche sul doppio incarico. Sindaco di Firenze scade l'anno prossimo e si ricandida dunque per altri 5 anni, e contemporaneamente segretario del Partito Democratico. Ma aveva già detto che lo avrebbe fatto. Mentre dal punto di vista politico c'è un'intervista interessante al ministro dell'Interno Angelino Alfano, che promette che cosa? Intervistato da Andrea Garibaldi a pagina 6 del Corriere della Sera, fa una proposta: il contrattacco di Alfano sul lavoro, burocrazia zero per le nuove imprese. 3 anni di burocrazia zero, questo è ciò che propone Alfano. Incontro ovunque imprenditori, commercianti interessati a investire capitali ostacolati dalla burocrazia, gente che non ne può più di conferenze di servizi, cose del genere. Da qui la nostra misura shock. Per 3 anni, chi abbia un'idea imprenditoriale, un'iniziativa commerciale o artigianale, potrà realizzarla senza aspettare alcuna risposta dagli enti pubblici. Naturalmente tutti coloro che avviano l'iniziativa sono tenuti al rispetto delle leggi, lo Stato dovrà esercitare ogni controllo, ma proponiamo questo esperimento che inverte una tendenza: lo Stato ricomincia a fidarsi dei cittadini e i cittadini non tradiscono la fiducia e riprendono a fidarsi dello Stato. Questa è la proposta. Poi, anche sul lavoro, invece, dice: spostare tutto su contratti individuali e aziendali. Sulla proposta del lavoro di Renzi, dice Alfano: spero che Renzi riesca a superare i veti ideologici della sinistra sul mercato del lavoro, a favorire la semplificazione. Fra breve lo vedremo alla prova dei fatti. Sui centri invece non possiamo, sull'onda della giustificata emotività, mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Ecco i dati di fatto: nel 2013 il tempo di permanenza medio nei centri di identificazione e espulsione è stato di 38 giorni. Attualmente ci sono dentro nei centri solo 445 stranieri. I ritardi nei rimpatri sono dovuti ai ritardi nel rilascio dei documenti da parte dei consolati. Aggiungo che dei 9 immigrati che si sono cuciti la bocca a Ponte Galeria, 3 sono ex detenuti per spaccio e 1, l'imam, ha precedenti per rapina, lesioni e tentato furto. Ecco, questa è la risposta del ministro dell'Interno su questa vicenda di Ponte Galeria. Quindi non c'è nulla da cambiare. Non affermo questo, dice Alfano. Ho istituito una task force ministeriale che dovrà rivedere i capitolati di appalto sulla gestione dei centri. Ho inviato ispezioni per verificare la situazione nelle strutture. Saranno ridotti questi tempi di permanenza massimo. Siamo pronti a lavorare per questa riduzione. E sulla Bossi-Fini dobbiamo stare attenti a non far arrivare dall'altra parte del Mediterraneo messaggi sbagliati del tipo: venite in Italia, qui c'è posto e lavoro per tutti. Non è così. Abbiamo già grandi difficoltà a assicurare un futuro ai giovani italiani. Quest'anno sono approdati in Italia 43.000 migranti. Nel 2012 dalla Siria ci furono 500 arrivi. Quest'anno 11.000. Dunque queste le cifre di Alfano, che soprattutto sull'emergenza dei migranti che si sono cuciti la bocca, raccontati da Tiglio Bolzoni, ha risposto così. Ripeto, 3 sono ex detenuti per spaccio e 1 l'imam ha precedenti per rapina, lesioni e tentato furto. Per Alfano sono questi alcuni di coloro che si sono cuciti la bocca a Ponte Galeria. Per chiudere con la politica, c'è da dire che anche Berlusconi è pronto alla rivoluzione nel senso all'interno del partito, così racconta Paola Di Caro a pagina 8 del Corriere. Chi sono i nuovi nomi a cui si guarda con interesse? In pole position ci sono Antonio Tajani, commissario europeo, vicepresidente della commissione e anche del Partito Popolare Europeo, uno dei fondatori di Forza Italia, nonché il solito Giovanni Toti, che è direttore di Studio Aperto e del TG di Italia 1 e del TG4, e che viene dato come una persona sempre molto vicina a Berlusconi. Ci aggiunge Ugo Magri anche un Mister X. Chi sarà questo Mister X? Non lo so. O Tajani, Toti, oppure anche un Mister X. Chi sarà il Mister X? Ma vi lascio al traffico con questo giallo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, cara Daniela che mi scriveva, che ci fai lì la vigilia di Natale? Ci sarà anche il 31? No, grazie Daniela, il 31 non sarò qui, Comunque ringrazio anche Fabrizio che fa gli auguri di buone feste a tutta la redazione, anche il nostro alpino Peter Vescapea, a tutti quanti. Grazie, contraccambiamo Fabrizio. Mentre per quel che riguarda la lettura dei giornali e le notizie di cronaca, ci sono ancora vari articoli sulla vicenda Stamina, una vicenda che assume i contorni sempre più clamorosi. Con l'inchiesta di Torino coordinata dal PM Guariniello nei confronti del metodo Stamina di Davide Vannoni, il suo fautore, Stamina, indagine sull'ospedale di Brescia, perché ora la procura di Torino, come racconta Luca Angelini, vuole capire anche perché una cura che non è una cura scientificamente parlando e che non ha rispettato tutti i criteri della validazione scientifica sia somministrata da un ospedale pubblico, l'ospedale di Brescia. E racconta il Corriere, una parte della risposta è scritta nella relazione dei NAS fatta il 23-24 maggio 2012. Agli ispettori si legge: Fulvio Porta, direttore dell'oncoematologia pediatrica e coordinatore del progetto di collaborazione con Stamina, ha fatto presente di aver avuto contatti con il dottor Luca Merlino, dirigente dei servizi sanitari della regione Lombardia, che era a conoscenza del fatto che il dottor Andolina, un indagato con Vannoni, aveva trattato pazienti con cellule staminali mesenchimali secondo il protocollo Stamina. Solo che, scrive il Corriere, Luca Merlino, il dirigente, è anche il primo dei pazienti trattati a Brescia con la metodica Stamina, come del resto da lui stesso raccontato davanti alle telecamere delle Iene. Lui dal suo ufficio nega di avere spinto per fare aprire le porte dell'ospedale di Brescia a Vannoni. Dice: in questa vicenda sono solo un paziente e come tale vorrei essere trattato anche sotto il profilo della privacy. Ma insomma, l'accusa e il sospetto è questo, cioè che un dirigente della regione Lombardia, che però è anche in cura con Stamina, abbia spinto affinché in questa struttura pubblica di Brescia, un ospedale pubblico, venisse somministrata questa cura Stamina. Questa è l'accusa, respinge le accuse ovviamente il dirigente in questione, ma il sospetto che si evince dai giornali è questo. Tra l'altro c'è un ritratto di Mario Pappagallo su Davide Vannoni, il laureato in lettere che si faceva trattare da medico specializzato, racconta il Corriere. Sulla bacheca Facebook di Davide Vannoni compaiono in questi giorni istogrammi, certificati, risultati di analisi, tabelle sui telomeri cellulari, le sue risposte alle accuse ufficiali, documenti incomprensibili a tutti coloro che lo osannano, senza senso per le persone obiettive, perché non si sa cosa sono, a quali esami si riferiscano, chi garantisce per quelle tabelle messe su Facebook. Davide Vannoni, 46 anni, fondatore della Stamina Foundation Onlus, è tutto fuorché medico, tantomeno neuroscienziato. Laureato in lettere e filosofia, con cattedra alla facoltà di lingua e letteratura straniera Udine, ma ama definirsi neuroscienziato, è scritto nelle carte della Procura di Torino. Capi di imputazione basati su testimonianze dell'attività di Vannoni a Torino, Trieste, San Marino. Prima di Brescia, spesso entrava in sala operatoria quando si trattavano persone con il suo metodo, scrive il procuratore Guariniello. E qui, insomma, il profilo di una figura che sta suscitando sempre più scalpore, racconta La Stampa, che ha iniziato con la pubblicazione dei verbali segreti del NAS questa accusa nei confronti di Vannoni. Oggi ospita l'intervento della senatrice a vita Elena Cattaneo, scienziata, che scrive in prima pagina della Stampa: dietro Stamina un piano contro l'Italia. Scrive Elena Cattaneo: da tempo volevo inviare il caro direttore un sentito ringraziamento alla Stampa per avere affrontato il caso Stamina. Anch'io spero si stia arrivando all'unica conclusione possibile. Auspico che l'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, di cui faccio parte, aiuti a capire come sia potuto accadere e come poter meglio tutelare istituzioni e cittadini contro i raggiri. Quindi li definisce così. Perché non sono tranquilla, come il suo giornale ha scritto, Stamina rivela la debolezza del nostro paese, paese che sta dimenticando come funzionano, quali sono i compiti delle istituzioni di un sistema democratico. Il mio timore è che dopo Stamina si ripresenti qualche nuovo caso analogo, magari un Vannoni 2.0, e saremo da capo. Probabilmente sarà meglio vestito, magari pure titolato, o con staminali meglio fabbricate, o fabbricate per essere sicure, sicure tra virgolette, ma l'obiettivo sarà lo stesso: ipnotizzare il paese col culto delle staminali che curano, senza poterlo dimostrare, per ottenere la loro somministrazione in tutti gli ospedali d'Italia per tutte le malattie del mondo. Ovviamente per fare questo dovrà trovare qualche supporto politico istituzionale, derubricare queste cellule da farmaco, come la legge europea oggi stabilisce, a trapianto, come vorrebbero non pochi speculatori già attivi in Italia, e poi si potrebbe creare un nuovo caso Stamina. Insomma, la biologa Elena Cattaneo, senatrice a vita, prende carta e penna e fa questa denuncia che trova ospitalità sulla Stampa. A proposito di denunce, se riusciremo, noi oggi ci collegheremo ancora con il Congo per fare in qualche modo gli auguri di Natale a queste 24 coppie di genitori, una roba, una vicenda incredibile. Io tutti i giorni ce ne occupiamo da qualche giorno e la trovo un'odissea straziante di 24 coppie di italiani che sono in Congo da mesi, da un mese abbondante, diciamo, perché hanno adottato dei bambini in Congo. È tutto regolare, ma manca una firma per farli uscire con i loro bambini dal Congo. E che sta facendo il governo italiano? Ufficialmente ci sono task force, ci si impegna notte e giorno. Ieri il ministro Kyenge ha incontrato anche i responsabili delle associazioni che hanno gestito queste adozioni internazionali. Però il ministro Kyenge due giorni fa ci ha detto che i visti erano stati prorogati grazie all'intervento diplomatico dell'Italia, e ieri invece Guido Totta, che chiamiamo tutti i giorni, ci ha detto qui ai microfoni: no, io pensavo il visto fosse stato rinnovato, in realtà devo ricredermi, il visto non è ancora rinnovato, sono senza visto. Ma allora, ma che è? Che è sta cosa? Si può capire qualcosa di più? Oggi i giornali ci tornano: le adozioni bloccate in Congo. Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera, pagina 21, una lettera al Papa: ci aiuti lei. Capite? Quando uno si appella al Papa, vuol dire che evidentemente non crede più, e c'è la disperazione, lo sconforto nei confronti della propria, delle proprie istituzioni che dovrebbero aiutare, invece il governo italiano, le famiglie degli italiani a Francesco. Parli lei al presidente del Congo, Kabila. Un appello quasi disperato. Tra l'altro La Stampa, che fa una pagina su questo, il nostro Natale da prigionieri in Congo, le autorità continuano a impedire l'uscita dal paese a 24 coppie di italiani e ai bambini che hanno adottato. La Stampa racconta che cosa? Che tutto nasce da un caso abbastanza clamoroso. Grazia Longo lo fa, e il merito è suo di aver scovato perché il Congo ha bloccato tutto questo. Lo racconta Grazia Longo sulla Stampa: il raggiro di un omosessuale e Kinshasa ha chiuso le porte. È la storia che ha dell'incredibile: rendere la vicenda delle 24 coppie italiane bloccate da oltre un mese in Congo con i loro bambini. Non ci sono i cavilli burocratici, ma all'origine del divieto da parte del Congo a far partire genitori e figli adottati con tutti i documenti in piena regola, c'è un retroscena che riguarda una coppia gay canadese. Tutto è nato, racconta Marco Griffini, presidente dell'Associazione Amici dei Bambini, dal fatto che un canadese mesi fa abbia adottato un bambino congolese presentandosi alle autorità africane come un uomo single. In realtà era un omosessuale che voleva allevare il piccolo col suo compagno. Il Congo su questo tema non transige, vieta le adozioni alle coppie gay e, indispettito del reato, ha chiuso per un anno le porte alle adozioni internazionali. Questa, insomma, è la vicenda che sta alle, diciamo, all'origine del blocco. Anche il Fatto Quotidiano si concentra su questa storia. Il titolo a pagina 13: adozioni, Kyenge ammette, mancano i soldi per il fondo. 24 famiglie ancora bloccate in Congo, intanto il governo taglia sui rimborsi e loro sono lì, e non si riesce a fare nulla o si fa molto poco per loro. Notizia dall'estero che trovate su tutti i giornali, una notizia non solo di colore ma anche una notizia, se volete, economica. È morto ieri all'età di 94 anni Mikhail Kalashnikov. Caro Peter Bescapè, indovina Mikhail Kalashnikov cosa ha inventato, cosa avrà mai inventato? Giustamente Peter mi guarda e dice: il Kalashnikov. Ebbene sì, a 94 anni si è spento l'inventore del fucile di un'arma, forse l'arma più diffusa al mondo. Pensate che, racconta il Corriere della Sera con Guido Limpio, pagina 27, ha ottenuto solo il titolo di eroe ma non si è mai arricchito, perché le autorità moscovite non gli hanno mai riconosciuto i diritti sull'invenzione di questo fucile. Aveva 94 anni. Una delle sue frasi più celebri è stata: era meglio inventare un tagliaerba rispetto al Kalashnikov. Vabbè, siamo al momento finale. È l'ultimo premio dell'anno. Vabbè, ma poi la classifica continua. Sul mio profilo Twitter è sempre aggiornata. In testa per ora c'è il Corriere della Sera, nettamente. Il premio per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi va al Giornale. Io quando ho visto questa pagina intera, una pagina intera di Roberto Bonizzi, a pagina 10 mi sono trattenuto a stento. Il cielo della politica. In Italia una rivoluzione, lo dicono pure le stelle. Le stelle, l'astrologa Magliano vede un 2014 di tumulti per la politica italiana. E sapete perché? È colpa di Plutone in Capricorno. L'ultima volta che successe questo, sapete cosa capitò? Ci fu la presa della Bastiglia in Francia. Roberto Bonizzi, se passa Plutone sono guai. Il pianeta più piccolo e lontano dalla Terra, che impiega 248 anni per fare il giro dello zodiaco, e quando si allinea si salvi chi può, si salvi chi può. C'è Plutone in Capricorno, caro Enrico Letta, e ci racconti che ci sono i quarantenni, ma non hai tenuto conto di questo. C'è Plutone in Capricorno e in una pagina intera il giornale racconta che Plutone in Capricorno è il segnale della fine. Ma vi rendete conto, amici del giornale, che anche alla vigilia di Natale la carta costa alquanto la carta costa? Ricordatevelo sempre. Noi andiamo al giornale radio e poi ci sentiamo dalle 8:15.